America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Boston. Mario Platero, sono venuto oggi a fare la trasmissione in questa straordinaria città dell'East Coast, la vera prima capitale americana, fondata nel 1630, capitale leggendaria, e da qui che partì la rivoluzione degli Stati Uniti. Vi ricordo che qui ci sono stati i Tea Parties, una protesta per una tassa sul tè. È una città oggi non grande, 620.000 abitanti, la 21esima città degli Stati Uniti. E soprattutto le università a Cambridge, al di là del fiume Charles, Harvard, l'MIT dove insegnò Franco Modigliani, italiano, premio Nobel per l'economia, dove ha studiato Mario Draghi, il nostro governatore. Siamo venuti a Boston per occuparci, direi, soprattutto di tre cose: di scenari con Alberto Alesina, economista che scrive per il nostro giornale, ricerca con Paolo Scaroni, il presidente dell'ENI, che ha inaugurato un impianto di energia solare, e studi con un giovane studente italiano che ci racconta cosa significa studiare in un'università americana, Tommaso Di Robilan. Cominciamo con Alberto Alesina. Alberto, in Grecia c'è scappato il morto, purtroppo, la crisi si fa complicata. Qual è la tua reazione? Io sono sempre stato relativamente ottimista su questa crisi, ma devo dire che gli ultimi eventi mi stanno abbastanza preoccupando. Credo che la Grecia sia un momento di svolta nella sua storia recente. Credo che la Grecia sia in gravi difficoltà, ma il problema fondamentale secondo me è la Spagna. La Spagna deve, in Zapatero, deve in qualche modo dare dei segnali molto forti di aver capito la gravità della situazione e fare degli aggiustamenti stile Grecia, prima che i mercati si preoccupino ancora di più della Spagna stessa. Chi altro oltre la Spagna? Si è parlato del Portogallo, dell'Irlanda, anche dell'Italia. Ma è difficile, non tutti i paesi sono uguali, hanno dei problemi diversi. L'Italia ha un deficit relativamente contenuto, ma un debito molto alto. Il Portogallo ha un'economia stagnante da tempo, la Spagna ha una produttività che non cresce da tempo. Per l'Irlanda sono meno preoccupato perché hanno dato già esempi di fare degli aggiustamenti molto forti in passato. Ma tutti i paesi, anche la Francia e l'Inghilterra stessa, debbono dare immediatamente dei segnali molto forti di rigore fiscale e di riforme, proprio per giocare d'anticipo. Quindi basta dire che va tutto bene anche in Italia, bisogna veramente partire con grande decisione. E dunque il problema europeo, l'Europa è in crisi, la Merkel ha chiesto una revisione del patto di stabilità. Ecco, quanto è pericolosa questa crisi dell'Europa e dell'euro? C'è una probabilità non infinitesima che questa crisi travolga l'area euro nel suo complesso, quindi proprio per evitare bisogna che l'Europa cominci a rimboccarsi le maniche. Non si può andare in pensione troppo presto, lavorare sempre meno, avere dei sistemi di welfare così generosi che poi pesano enormemente sulle imposte e atteggiamento un po' così, diciamo, di nonchalance, di schiare, di basarsi sul settore pubblico. Quindi Grecia è un campanello d'allarme che devono ascoltare tutti. Ringraziamo Alberto Alesin. Assolutamente. Grazie Alberto, ci sentiamo presto. Passiamo alla ricerca con Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'ENI, all'MIT. L'ENI ha fatto un accordo con l'MIT per cofinanziare un progetto di ricerca per sfruttare in modo originale l'energia solare, non soltanto con il silicio, ma con i polimeri. Ecco, cominciamo col chiedere a Paolo Scaroni qual è il suo rapporto con l'America. Naturalmente ho studiato in America, ci vengo abbastanza spesso, ho qui molti miei importanti azionisti. È un paese importante anche da un punto di vista del petrolio, noi siamo una grande presenza negli Stati Uniti, sia in Alaska che nel Golfo del Messico. L'industria del petrolio è stata creata qui e oggi abbiamo anche questo centro di ricerca che invece traguarda il futuro. Non ci aspettiamo dei risultati che impattino i nostri conti economici nell'arco dei prossimi pochi anni, ma certamente il futuro è qui e noi ci auguriamo che ENI possa giocare un ruolo importante anche nelle energie alternative, quelle che rimpiazzeranno inevitabilmente il petrolio quando finirà. Qual è l'idea attraverso la quale tecnologicamente si può sfruttare l'energia solare? L'idea è molto semplice: dal sole ogni giorno arrivano sulla Terra raggi che rappresentano alcune migliaia di volte l'energia che noi consumiamo. Quindi se siamo capaci di catturarli, renderli disponibili di giorno e soprattutto di notte, essendo capaci di stoccare l'energia elettrica, beh, abbiamo risolto un problema vitale dell'umanità: disporre di energia in quantità rilevante, non inquinante, e un'energia disponibile per tutti. Questo è il centro di quello che questo nuovo centro di sviluppo tecnologico si propone. E devo dire che quando vedo i progetti su cui stiamo lavorando, vedo delle cose di grandissimo interesse. Certo, passare dalla ricerca teorica all'applicazione è un passo molto lungo, ma devo dire che torno a casa più ottimista di come sono venuto. La piattaforma che si è incendiata nel Golfo del Messico, un problema chiaramente. In Italia abbiamo piattaforme a largo, che situazione abbiamo nel nostro paese? Ma in Italia abbiamo piattaforme di condizioni tutte differenti, sia per la profondità del mare che per la profondità dei giacimenti, e poi le nostre attività offshore sono essenzialmente a gas, quindi diciamo che le tematiche sono completamente diverse. Poi vorrei dire che queste attività offshore si svolgono da decenni e normalmente sono delle attività molto sicure. Certo, ci piacerà capire bene cosa è successo nel Golfo del Messico, perché questo darà delle importanti indicazioni per evitare problemi nel futuro. Bene, arriviamo al terzo capitolo, quello degli studi, che poi è il più importante, le generazioni di domani, queste straordinarie università modello a livello globale. Siamo a Harvard Square con Tommaso Di Robilan, uno studente italiano che ha avuto la fortuna e la capacità, l'abilità di venire a studiare niente meno che a Harvard. Tommaso, siamo a Harvard Square, raccontaci che cos'è questa piazza. Sì, è il cuore dell'università, è un punto d'incontro per tutti i ragazzi, insomma qui c'è molto un senso di comunità, pub, insomma, dove uno va a divertirsi. E da lì poi si diramano le varie facoltà, no? Che sono un po' sparse, sì, in tutto, certo, il campus. Quello è un po' il centro sociale, poi tutto intorno ci sono le varie facoltà, le classi, le aule, i dormitori. Ecco, in Italia c'è una cosa così, secondo te? Che io sappia, non veramente, insomma, molti dei campus universitari alla fine stanno nelle città, e anche questo senso di comunità, insomma, l'idea di campus non c'è molto in Italia. Ecco, raccontaci come sei riuscito a venire a Harvard. Innanzitutto è molto importante avere buoni voti, eccetera, andare molto bene a scuola, certo quello è importante, però è anche vero che quasi sempre non basta, e loro cercano cose diverse, dei curriculum misti. Io ero stato in Africa per un mese per fare volontariato, l'avevo scritto nella mia application, queste cose qua loro interessano molto e fanno vedere che uno è una persona interessante, che ha fatto molte cose, eccetera. Poi io ho fatto anche scherma per molti anni a livello agonistico. E con la scherma sei entrato, cosa sei, nella squadra di Harvard? Sì, adesso sono nella squadra di Harvard, anche quello molto divertente. Com'è il rapporto con i professori a Harvard? I professori sono molto disponibili. Un corso che mi ha colpito in modo particolare era un seminario sulla crisi finanziaria che ho fatto con Ken Rogoff. Beh, il super economista, era capo del Fondo Monetario Internazionale. No, ma infatti era pazzesco, eravamo io, lui e 8 altri studenti come me che discutevamo della crisi finanziaria, e lui che ci spiegava i meccanismi, insomma era molto affascinante. Il semestre scorso ho avuto Neil Ferguson, molto bravo. Insomma, stai parlando dei nomi più importanti. Neil Ferguson, appunto, uno dei grandi storici, tra l'altro scrive per il nostro giornale Sole 24 Ore. Senti, ci sono altri italiani come te? Quanti sono? Italiani ci sono, altri 3 italiani nel mio anno, che è abbastanza una rarità. Poi ce n'è un altro che è l'ultimo anno e poi basta, in mezzo non c'è niente. Bene, Tommaso, grazie, è stato un piacere e ci sentiamo di nuovo presto. Bene, ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma non così difficili come quelli che sta vivendo oggi l'Europa, e resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ascoltiamo dei National Apartment Story, una canzone riflessiva adatta ai nostri tempi. Bene, da Boston questa volta è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.